cose del suo impresario, dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente del suo impresario, dei balletti russi. Generazione, le donne curve sui telai vicini alle finestre, un giorno sulla prospettiva Nieschi, per caso vi incontrai con Stravinsky. Sempre con...